con l'attore Roberto Erlizka per parlare dello spettacolo Reading Concerto. Avrei preferenza di no. Bartleby lo scrivano di Herman Melville alla Notte dei Musei a Roma il prossimo 19 maggio. Roberto, ben trovato. Buonasera, buongiorno. Raccontiamo un po' intanto come lo descriveresti questo lavoro. È una lettura con intermezzi musicali che sono stati scelti dalla regista Teresa Pedroni e verranno eseguiti da dei musicisti jazz del primo Novecento. Ecco. E la storia è un racconto di Herman Melville che parla di uno scrivano il quale viene assunto da un avvocato e che però si rifiuta di fare qualsiasi altra cosa che non sia per l'appunto copiare. E naturalmente la storia ha degli sviluppi anche seri. Io faccio il narratore che sarebbe questo avvocato che narra la sua storia, mentre il personaggio di Bartleby viene interpretato da Gianluigi Fogacci. È un po' difficile dare un resoconto di questa storia perché è una specie di strana, grande metafora che è stata oggetto di studio da parte anche di filosofi. Herdil era evidentemente un autore che non si fermava al semplice racconto, ma che lo approfondiva con la sua visione del mondo universale, ecco, insomma. Però il nucleo della storia è questo: uno scrivano che viene assunto, lavora indefessamente, ma appena gli si chiede di fare qualcosa che non è esattamente quella, dice preferirei di no. Veramente io preferisco questa versione, che avrei preferenza di no, che non mi sembra neanche italianamente poi granché. Sì. Dice preferirei di no, corrisponde di più a quella della lingua originale, che ovviamente è l'inglese, l'americano. Sul significato ci potrebbero dire e si potrebbero scrivere libri. Anche perché Melville non spiegò mai il suo personaggio in seguito. Ma alla fine del racconto c'è un'ipotesi che fa ovviamente lo stesso personaggio narrante, che è un'ipotesi abbastanza, come dire, abbastanza straziante. E anche quella è un'ipotesi che, se volete, ve la posso anche fare, però è un peccato perché toglie un senso al racconto emozionale, sentimentale, mentre fino allora sembrava lucido delirio, e che insomma può aggiungere al tutto un colorito che però è meglio conoscere dopo, perché se lo conosce prima forse gli sfugge quel tanto precisamente di inafferrabile che invece è forse la cosa più bella del racconto. Sì. Roberto, come hai abbracciato questo progetto? Teresa Pedroni me lo ha proposto. Per la verità la conoscevo già questo racconto, anzi me ne avevano persino offerto una versione teatrale, che però io non avevo accettato perché mi sembrava che teatralmente non potesse essere tradotto in modo giusto, ecco, efficace. Mentre invece in una lettura ovviamente si viene a conoscenza delle parole esatte dell'autore. Insomma, non credo che si potrebbe fare anche una versione cinematografica, come fu quasi di tutto praticamente, però tutto sommato forse ancora cinematograficamente meglio che teatralmente. Invece, fatto letto così, credo che conservi dalla sua forza espressiva e tra l'altro sicuramente così inframmezzata da queste musiche che riguardano l'epoca, possa diventare uno spettacolo, cosa che peraltro noi già sappiamo perché lo abbiamo fatto varie volte e sempre con un certo, insomma, successo da parte del pubblico. Cosa ti affascina delle pagine di Melville? Appunto, essendo un grande autore, è in genere molto difficile dire mi piace per questo, oppure sono tante cose per cui può piacere. In realtà il bello è proprio questo, che sembra inspiegabile, e lo è tutto sommato anche inspiegabile, ma questa impressione è quella che il personaggio narratore, che sarei in questo caso, già subito subisce. Quindi in un certo senso tu ti identifichi un po' proprio con chi narra e che si trova in una situazione nella quale anche lo spettatore in un certo senso si trova, perché tutte le sbalordimenti e poi le ire, insomma, del personaggio che si trova di fronte a un muro, come è parte di, e lo spettatore le condivide. Tra l'altro io ho anche un'idea così tipo fantasioso, fantastico, proprio di questo Bartleby, che mi ha ricordato un po' gli insegnamenti del mio maestro Orazio Costa, il quale, insomma, diceva che noi, nel momento in cui cominciamo ad avere una percezione della realtà, fino dagli inizi proprio della nostra vita, vediamo le cose e se queste cose ci attraggono, ci interessano, noi diventiamo quelle cose. Insomma, lui la chiamava la mimica, e naturalmente una mimica che non ha niente a che vedere con i mimi, perché è un modo per identificarsi con le cose. Ora, questo Bartleby ha l'abitudine di fissare un muro che si trova fuori dall'ufficio in cui lui lavora e di stare lungamente a guardare questo muro. Allora io ho pensato che lui in un certo senso si identificasse con questo muro, volesse diventare un muro, e di fatto è quello che poi riesce a essere, perché chi respinge qualunque intervento altrui è come fosse un muro, e questo ha poi uno sviluppo nel finale. Insomma, ecco, questa è un po' l'immagine di base che io ho avuto dal racconto. Sentendo anche le parole di Daniel Pennac, che ne ha fatto delle letture con Stefano Benni, lui ha posto attenzione anche al capo di Bartleby, che con pazienza cercava di capire le ragioni di questo rifiuto. Certo, è quello che racconta il narratore, il quale usa una grandissima pazienza, che però a un certo punto perde, però poi la recupera per così una specie di compassione, di comprensione. Lui vuole capire questo personaggio enigmatico, e il bello del racconto è proprio questo, che non ci troviamo di fronte a qualcuno che semplicemente racconta come è fatto questo personaggio incomprensibile, ma che lo subisce e lo accompagna e vorrebbe aiutarlo. Insomma, quindi, come dicevo, è un narratore in cui il lettore e lo spettatore possono identificarsi, possono seguire l'iter delle sue reazioni psichiche e psicologiche di fronte a questa specie di mistero. Roberto, in chiusura, c'è qualche progetto al quale stai lavorando in questo periodo? Sto lavorando a una fiction tratta dal nome della Rosa, dove faccio un personaggio così che ogni tanto compare, ed è un monaco un po' demente e un po' veggente, una parte abbastanza strana e interessante, ed è un'elaborazione molto lunga, appunto perché sono 8 puntate, quindi insomma il regista è Giacomo Battiato, e ci sono anche attori internazionali noti come Rupert Everett e John Turturro, e poi persino attori italiani. Ricordiamo l'appuntamento con il reading concerto Avrei preferenza di no, Bartleby lo scrivano di Herman Melville, per l'adattamento teatrale e la regia di Teresa Pedroni, nella Notte dei Musei a Roma il 19 maggio. Un ringraziamento, un saluto a Roberto Erlizka, che lo porta in scena. Sì. Saluto e vi aspetto. A risentirci presto. Bene, grazie, arrivederci.